Sì, come poi ne avevamo già parlato nei microfoni della radio, insomma, avevamo annunciato questo sciopero che era nato dall'assemblea comunque di operai e operaie delle pulizie della Sapienza, e avevamo annunciato appunto che avremmo oggi e domani scioperato l'intera giornata per cercare di fermare appunto quello che voglio, che le aziende appaltatrici vogliono far ricadere sulla tassa dei lavoratori. Vogliono far ricadere un appalto preso al 26,50 di ribasso. Sì. Ci avevano già tentato nei mesi passati e grazie comunque all'unità dei lavoratori siamo riusciti a fare retrocede. Per fare un breve riassunto, ci decurtavano la busta paga, ci spezzavano gli orari di lavoro. Chiaramente a mesi di distanza ci troviamo nuovamente in una situazione molto grave perché appunto proprio in questi giorni stanno chiedendo alle persone di andare in cassa integrazione, che è una cosa totalmente grave perché comunque la cassa integrazione riguarda appunto le aziende che sono in crisi, qui non sono in crisi e loro vogliono fare un tentativo di spostare i lavoratori dall'appalto della Sapienza e spostarli in loro altri appalti per poi chiaramente metterli in cassa integrazione. Questo significa chiaramente di smembrare tutto il comparto. Noi qui siamo fra le sedi della Sapienza e le sedi esterne dell'università, appunto siamo circa 300 operai e operaie. E in più chiaramente loro cercano di diciamo ripartire il lavoro a tutti gli operai e le operaie, cercando di colmare le assenze che ci sono, ripartendo più il lavoro nello stesso orario appunto di servizio. E le sostituzioni dei lavoratori e delle lavoratrici che fanno giustamente malattia infedia non vengono eseguite. Siamo costretti sotto minaccia a sostituire i nostri colleghi nelle stesse ore di lavoro, quindi questo poi comporta anche un grosso disagio per gli utenti e per personale amministrativo che sta qui, perché comunque le condizioni igieniche della Sapienza sono veramente pessime. In più loro chiaramente in sede di appalto avevano dichiarato che avrebbero portato 30 novità appunto per questa sostituzione e questo non è mai avvenuto. Le aziende stanno cercando di far cassa in tutte le maniere su questo appalto. Sì. E le aziende sono due, sono Euros e Promos e Cop Service, due aziende del nord, che hanno preso questo appalto attraverso una mera spartizione politica tra centrodestra e centrosinistra. E oggi si vedono questi frutti di questo appalto. Le nostre richieste questa mattina di questo sciopero noi sappiamo benissimo che questo per noi non è un problema sindacale, avremo lo stesso problema ogni appalto che ci sarà. La situazione è molto grave, quindi comunque noi chiediamo all'Università della Sapienza in primis di incontrare una delegazione di lavoratori e di lavoratrici questa mattina per intavolare noi chiediamo la rescissione del contratto con questa azienda, devono essere assolutamente mandate via, perché perpetrano comunque, continuano a perpetrare comunque un comportamento scorretto, e chiediamo all'Università della Sapienza appunto di intavolare un tavolo per discutere dell'assunzione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici. Dopodiché chiaramente noi abbiamo anche delle rivendicazioni diciamo nell'immediato per le aziende, che sono appunto l'erogazione degli straordinari pagati sulla busta paga, la ripartizione delle ore delle persone che sono andate comunque in pensione ai parametri più bassi, se ci sono molte lavoratrici che fanno un orario veramente ridotto dalle 6 alle 9 di mattina, non è uno stipendio decente, e in più chiaramente l'impiego di questi 30 lavoratori per le sostituzioni. Dopodiché chiaramente per noi la rivendicazione oggi principale è riguardante all'università, perché comunque deve assolutamente, come dicevo, mandare via queste aziende e assumerci in maniera diretta all'interno dell'amministrazione. Dopodiché chiaramente noi in questi giorni abbiamo purtroppo, ma già lo sapevamo perché l'avevamo già sperimentato sulla nostra pelle, il terrorismo che hanno fatto i sindacati confederali dicendo che questo sciopero è illegale, che si rischiava la galera, che ci si rischiava il posto di lavoro. Questo chiaramente perché comunque la riuscita di questo sciopero comporta la mancata, secondo loro, rappresentanza, diciamo perdono di rappresentatività che già l'hanno persa, perché comunque non rappresentano veramente nessuno, rappresentano solo i loro meri interessi privati, le segreterie e gli RSA sindacali. Dopodiché questa mattina appunto ci siamo riuniti alle 6:15 davanti ai due principali lotti, qui è diviso per lotti, sì. E c'è stata una riduzione del 60-70% allo sciopero. Chi oggi viene alla Sapienza chiaramente troverà sporco. Noi stiamo cercando di, abbiamo fatto varie azioni comunicative sin dalle 6 di mattina, riguardo soprattutto quelle pochissime persone che sono entrate a lavorare, convincendole a scioperare domani, perché anche domani ci avranno l'occasione di bloccare insieme a noi il comparto. E appunto cercando di, adesso chiaramente noi ci sarà la conferenza stampa, ma poi comunque gireremo in corteo all'interno della Sapienza per fare un'azione comunicativa anche con l'utenza e con gli stessi lavori dell'università per le motivazioni, perché qui oggi troveranno tutta sporca l'Ateneo. Sì. Allora Daniele, noi ti ringraziamo e ci riaggiorniamo a questo punto alle 11 circa, un'oretta, quello l'orario previsto per la conferenza stampa. E, niente, ti ringraziamo e ci riaggiorniamo tra poco. Va bene, grazie per lo spazio, a tutti e a tutte. Grazie a voi.